tutto a pagare, tutto a pagare. Cosa vuoi fare? E cosa vuoi fare, Antonio? Il prossimo anno paghiamo tutto, tutto quanto paghiamo. C'è roba da pagare, cosa dite? Mamma mia, luce, gas, tutto dobbiamo pagare. Sì, non hai sentito che adesso hai cosa, ai professori e quella cosa là, hanno aumentato le pensioni, la cosa, lo stipendio da 80 a 110 euro. E poi glielo tolgo, non ti preoccupare. È tutta roba che fanno per la questione delle elezioni. Tutta una presa per il culo, fregate, compresi anche gli 80 euro, prima li hanno messi e poi li hanno tutti, se ti ricordi. Adesso li hanno nuovo rimessi e dopo le elezioni li tolgono attorno. Poi in pratica quello che paghi, ciò che ti danno in più, lo paghi in tasse. Il discorso è quello, con la luce, col gas, eccetera, eccetera. Perché aumenta tutto. Già lo so che aumenta tutto. Vabbè. Siamo un mondo di, come si dice, aveva ragione la canzone di Venditti, un mondo di ladri. Stava pagando 200 tasse, addirittura stava pagando anche le tasse dell'Abissinia. Tu immaginati tu, hai capito? Infatti ascolta, tanti anni sono andato a prendere i cusi, no? In farmacia di Cirutti, quelli che si mette per il cuore, mia madre, no? 5 di coso di giunta 5 euro e 56. Figura di due, come guarda, faccio ricoverare, almeno c'è tutti gratis, così paga lo Stato. Ogni controllo che fai ce l'hai gratis, inutile stare a fare visite di controllo a pagamento. Fai finta di sentirti male, e ricoveri ti fanno tutti gli esami gratis. Già lo so. Non ci vuole nulla, basta bere 4-5 caffè tutti in un colpo, vedrai come vai veloce a tanto soccorso con la pressione alle 100. Tutti i controlli ti fanno, sai, analisi del sangue, dici cosa c'ha lì, io c'ho quello, io c'ho quell'altro, tutto ti controllo. Una volta che c'hai tutti gli esami, vai e sei tranquillo. Ti risparmi anche gli esami del cuore addirittura, perché a me mi avevano sparato 150 euro. Ho preso, mi sono pigliato 4 caffè e l'urgenza sono andato a porto soccorso. Mi hanno fatto il controllo del cuore in cardiologia a gratis. Guarda com'è, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, com'è? Tonello? Tonello, mi senti? Tonello, attenzione Antonello, dimmi, dove vedi? Qua, sono andato in cucina a prendermi una lattina, vabbè me l'avevo comprato almeno. Ah, bagnati il becco? Ho mangiato come un porco, ho mangiato anche i finocchi. Cosa hai mangiato? Carbonara, già lo sai che la digerire è male. E un coso di filo intero insieme al cane. Che? Siete diventati vegetariani? No, frusci. Siete diventati vegetariani, Antonio? No, sono diventato filocchi, sono diventato, cazzo. Ho comprato 5-6 stamattina di quei filocchi. Cazzo, ma poco sono grandi. Siamo a cazzo cucimati con la fogna, ragazzi. Perché? Perché mi sembra un bel strano come di quella larghezza, la vita svicca. Quindi sono concimate un bel forte. C'è un sapore tipo cosa, tipo menta, me. Allora, ma dove le ha preso? Lo spinto. Allora, prima di coso, controllale bene, lavale bene. Attenzione che non ti faccia male. No, grazie a Dio, non sono morto io, è stato quello del cane, quindi. Non è mai fidarsi. Vabbè, dallo show sono morti due per la carne di maiale, quindi cosa me ne frega a me? Peggio per loro che hanno mangiato roba di Ushan. Non vado da Ushan a risparmiare. Ho capito. Tutto, 1 euro, 2 euro. e poi carne strana, compresa che i polli. Non ho capito. Che usciamo, c'hai i polli strani, ho detto. Quando li cucini diventano la metà di... sembrano a cartoccio, sembrano quei polli. Ieri invece alla Colbert, due polli, 5 euro va bellimi. Ah, ma li ho visti anch'io, li ho visti giusto, ma i polli già pronti. Ho visto il prezzo, ho detto no, lasciali stare dove sono. Già preferisco mangiare altre cose. Ah, qui alla Colbert di carbonazzi, 2,50 l'uno, due polli. Infatti li ho presi al volo l'altro giorno, le bistecche 3 euro, ti ricordi con le bistecche che abbiamo mangiato assieme? Il salsiccione è uguale. Sembra una giornata fortunata, di giovedì sono andato a fare la spesa, il giovedì c'erano i prezzi come si deve. Di culo sono andato. Ma io invece alla Conan, andato alla Conan, c'era mia madre, ho preso quella pizza a tranci, quella lunga. Una di quelle lì con le cose, come si chiama, grigliate, le zucchine, quella roba là, da 3 euro. Figurati. No, vabbè, quello di Rospino non è che siamo male, il discorso è che devi sapere, cioè, non è che vogliono condite molto, invece io ci ho messo il condimento e dopo mezz'ora c'avevo già mal di stomaco, di quelle pizzerie larghe, quelle soffici, che sono alte un centimetro. E quindi ho pesato una specie di magnesia, dopodiché ho digerito, poi mi sono coricato. Anche io questa qua l'ho fatta a metà, abbiamo divisa, metà a lei, metà a me, no. Però le zucchine le ho tolte, e me la sono condita là solo io con salsiccia, cipolle e olive nere. Questo cipolle, mamma mia. Però dopo mezz'ora, dopo che ho mangiato, mezzo barattolo di coso, mi sono fatto fuori di quella magnezza. Che volevi leggerita, devi fare il ruttino, se no sei fottito me, cazzo. Vabbè, io ho anche la mania di bere quell'acqua di Ruspin, quella, capito? Quella gasata, quella verde, cazzo, è come se bevi la birra, tale uguale, e quindi ti gonfia lo stomaco. Quella bottiglia blu. No, la verde, non la blu, è uguale, non cambia nulla. Io quella frizzante, quella blu, bevo quella, cazzo, e digerisco anche il ferro con quella. No, io quella verde ho bevuto, mamma mia. Infatti mi gonfia la mattina. Adesso se la piglia in culo non le bevo più. Sto bevendo troppa roba gasata, mi sta allargando lo stomaco, ragazzi. Stavo bene una settimana senza bere niente. Si è sgonfiato subito. Tu stai bevendo la quercetta? No, è tipo quercetta di mare, va. Quella blu si chiama. Di colore verde, lo sai la cosa. La bottiglia. C'è quella blu gasata e la blu naturale. Quella gasata sto bevendo io. Ma è un casino di notte, ragazzi. E cos'è? Sempre acqua, mia Antonia, sempre acqua. Esatto, non c'è più buona che l'acqua, mia. Ma è gasata, viene male, cioè se mangi roba pesante ti gonfia lo stomaco, è tutto gas, se ci vuole qualcosa per sgonfiare, capito? Se no sei tutta la notte. Poi a parte quello, poi ci sono i fuochi d'artificio. Già lo so, purtroppo è così. Già. Ma non vai già a camminare a piedi, sono a posto. Una camminata già va bene. Se mi faccio una passeggiata giù a coso, al Conrad varo, mi piglio un altro leggero uguale al mio, per Simona. Che cosa? Un'altra? Un altro telefono leggero uguale al mio. Per Simona? Ehi. Perché? Rotto si è. No, perché il Lumia non gli piace, allora lo piglio uguale al mio e mi cambio la carta, mi cambio e me la posto. Ma quell'ultimo telefono che hai preso tu? Ehi, quella è una cazzata a usarlo. è facile e poi è un bel sensibile pure, anche per il wifi. Addirittura io piglio dalla... già hai visto dove mangiamo noi in cucina, da lì prendo il segnale di Giovanna laggiù, invece con Lumia manco morto. È stato male con Samsung, Samsung proprio non prende nulla. Ho capito. No ma tu glielo prendi, quello, l'ultimo telefono che hai preso, che hai pagato 89 euro. Quello lì prendo, sì. Ah, glielo prendi a Simona. E adesso vado e glielo prendo, dovrebbe esserci ancora. Io non l'ho visto. Tutte le volte che sono andata alla colonna non l'ho visto. Adesso guardo se c'è, glielo prendo. Magari costa anche di meno, mi niente di strano. Non lo so, guarda, non te lo so dire. E l'altro cosa ne fai? Che cosa? Lumia? Lumia quello lo tengo di riserva. Ah, lo tieni in caso succeda qualcosa. Nel caso succede magari che gli piglio un'attaccata riversa della posta mobile, gliela inserisco e così ce l'ho di riserva, capito? Beh, ho sentito a Tommy sbagliare. Almeno la uso davanti per aprire la porta che è arrivata lì. Che è arrivata Alicia? Mi stavo dicendo, dottor Giuseppe è sparito. Giuseppe, non ti sento di audio, non stai uscendo di audio. Nulla, cazzo, mi dite che è caduto il baracchino, sono stato ammazzo, cazzo. Nulla, non stai uscendo, niente. Adesso ti do... Ah, già, esci già. Ciucchi ciù. Salute. Così fai la fine tuo fratello, che è già morto, lo San Antonio Manconi. Stava mangiando le frittelle, eia, vero, chi ce l'ha fatto un lavamano pieno, un lavamano grande ne ha fatto, e si mi sta succhiando, la succhiatura dice che mangiano. Insalata stanotte col sughetto e io alla faccia tua e naro denaro un bisù cos'è al denaro? Luca dormitosi non risponde alla magnete ma se la piglia tu mi si a Castro no a condimento anda e tocca il palo come te dico, Luca Clipper Gusto, morto. Davvero? Luca morto, sì. Ma va, si le tocchetti. Luca, dormi così. Eppa, aspetta, te lo penso. Che bocciurio, cazzo, per carità. Ha detto, giovani! E ora, il tagere, sciomitoci. Seduto sono. Non ti vedo io, sciomito. Ma ce li ha aperti gli occhi. Sì che ti ha graziato, ti sta chiamando. Ma non lo sento, grazie. Dormito sì. No, non lo sento, no. E perché oggi non ha fatto il lavaggio alle orecchie, lo sente per quello. Se l'ha fatto le orecchie, così è. Allora, tutti i frigioli si ha mangiato, San Piero, pure una lecce, San Piero. Ci mangia da rimani. Per carità, è da rimani, ma niente, cazzo. Poi va da sfipatura, tu. Ah, sfipatura, infatti. E allora? Come fai a dare un giocetto, quella pura di rulatte, ma fa da più bene. Me lo posso immaginare. Popolo graziano, va. Grazie, ti stai rovinando, Cucchio. È sicuro. Sono rosi, ti piglia la fata di piedi aristinchimi. È sicuro. È Luca Guppa morto, se tu lo vedi di più. Ah, Luca l'ho visto stasera. Cosa l'ho visto? Stasera l'ho visto. È tutto gonfio e adesso sì, Miriu. Hai visto tu che sei buffato, si è, va. Come vanno sta entrando, un certo niente, e lo vedi. Perché sta allattando il nipotino adesso, lui. Luca! Zio Mari, mi tra un po' andiamo a un compleanno. Questo porto attorno. Ah. Allora Marco, si passa una serata diversa agli altri, va bene. Sì, eravamo lì al circolo, c'era un compleanno, poi c'era il compleanno di mamma, insomma. Oggi, tra ieri e oggi, è dolci a go-go. A me invece me l'ha fatto la torta col baracchino, con la fotografia dell'apparecchio sulla torta. E già lo so, mi ha fatto avere, comunque auguri, mi. Quanti sono? 30? 32 sono, dai. 30, bella con la fotografia, no Luca? Meglia, auguri anche da parte di Marina. Giovanni, quando uno arriva con l'età ci deve mettere la firma, capito? Interessante stare bene, poi già si prosegue. Poi, ovvio, quando prima o poi ti chiama, chiama a tutti, non solo a te, né a me, a tutti. E le portate più tardi che mai, capito? Più tardi che mai, però anche più tardi per essere sano, per essere malandato è meglio là. Vado o no? Grazie. Luca non risponde. A te ma niente, e fai tenere ma niente. E allora, già vivo sui frigorifici, stai mangiati dolcetti. Inteso raggio, ma è trudiente, è trudiente, e ma niente. La roba brutta deve sciafura. Oh, ma con lavoro mi ha fatto graziare. Tre magine già razza amico babemo, o lui. Mi ti la giubati la stati che ti devi farmi. Se ti la metti. 80 hai detto. Un mese prima mi fate auguri a uno. Boh, non lo so che io. Lui. Giovanni, la salva. La salva. Quasi quinta venuta, Giuseppe. Vero, grazie. E allora, me li anticipati. A 10 che sia, ci do un piatto di frigioli a Gio Maria, gatta. Allora ne mangimi. Ma forse Luca vi avvarmi. No, vai a dire che l'hai dato tutta Luca mangiando. Oh, Luca si ha mangiato i suoi, io mi ho mangiato i miei e tu ti hai mangiato i suoi. Davvero? E allora? Fabri, ancora vivo, sì. Passati in sbaglia, Fabri. Hola. 26 da Giovaccio. 26, buonasera comunque, grazie. Tutta scarica sei uscita adesso. Vabbè. È fatta pare grigliare insieme. E allora invece sempre in galera, era meglio fuori che in galera. La verità, me lo penso. Vabbè, dai, io ne approfitto e vi saluto che vado, dai. Mangiamo un pezzettino di torta, poi gli auguro a mia cognata e poi devo scendere anche a prendere mia madre, sennò sono rimasto. Allora, buona serata, a domani, se Dio vuole, ciao. Ciao Lucia, mi raccomando, bevi poco, eh. Ciao Luca, buona mangiata, no, non ti cagare le mutande, ciao. È vero. Ciao, ciao. Cosa Fabri, ho capito. No, io bevo con la truzza. Ciao Lucia, ci sentiamo alle prossime, mi raccomando, eh. Meglio con la bocchetta la birra. Dai, grazie. Sì, ciao, ciao. Ciao ciao Luca, mangia pochi dolci, ciao. E beh Fabrizio, e te mi racconta oggi, almeno ti sei sbagliato un po'. Io me ne ho messo avanti su questa parata campagna, e io dalla settimana entrante comincio, c'è da abbassare un po' gli abicocchi e delle susine che sono troppo attendersi a lungo romano la bocca, che arrivi, all'abbasso, e ti devo portare due filari di uva che ho, acqua eba, non il daglio, più tardi la daglio eba, però adesso devo portare un po' e basta, ma due o tre giorni e faccio tutto. Sicuro, sicuro. E vedi, Bacchigia già la sta, buonasera, signor Bacchigia, avanti. Mia, buonasera Gian Maria, buonasera Graziano e anche grazie Fabrizio. Buonasera a tutte e tre, avanti signor Gian Maria, ho sentito degli anni, auguri. Grazie Bacchi, grazie. Tiriamo avanti, se tutto va bene. Sì. E non ho capito l'interrogativo che hai fatto. Beh, chiaro. Per l'anzianità. La pensione è stata triplicata. Andrà bene mela. Graziano, e beh, cosa mangiando stai? No, ciao Bacchi. Il giorno l'ha mangiato. Se fra poco ceniamo. Sì, fra poco. Allora le galline, a quell'ora ma fanno cena alle galline. Fra un'ora, cena sono le 7, fra un'ora. Avevo il sole ancora accerato. Ah, verso le 8, 8 e un quarto, 8 e mezzo, cena. Però verso le 7 e mezzo comincia a preparare, eccetera, eccetera. Minimo due bicchieri, è una giornata di mangiare dei frisciuri. No, è che ti trisci ne do un po' ai colleghi, nulla da fare, nulla, avaro, Gian Maria. Sai che ce l'ha giusto, a 10 gatto gli do qualche piatto di frisciuri a Gian Maria, gatto. E pure a Marchisio e anche a Fabrizio. Tu chiedi se la mai hai gordo bulu, Grazie, così è. Altro era Luca, tutte le prigioni e le pasticcine che si ha mangiato. E Gian Maria si ha mangiato tutti i suoi, noi che me ne ha dato un po' a assaggiarli, no? Tutti essi si ha mangiato i babboli. Grazie a lui, sì. Ma domani è arrivato, ma domani è domenica. Giovedì sono le fratelle, Fabri. Cristiano Rivase invita tutti, ha detto. Tutti i civili, i sassari sono invitati in casa di Graziano, a mangiare frigiori. Ah, è dominato, Aimi. Io sono invitato e non ci sono giovedì. Io le vado a mangiare da dove mi hanno invitato. Gio Maria invita tutti invece. E non ti confere che ha fatto la vestimenta per ti invitarti a mangiare. Tanto io mangio poco. Stasera ci fai i frigiori, io pongo lo limone. Io pongo proprio un litro di luce al bongo, va. Mangio il buruino, la Gio Maria. Posso fare forse a regalare, ce l'hai. Però Graziano li fasi mangiare a noi però. E infatti. Manco Pippo a Chiassemio. Io faccio gli altri, mi posso due, tre cosi di fricelle, due, tre bicchieri di zucchero e me ne vado. E siamo a posto. Rio Ferro Burbo. Ma Rio Ferro sì, che la sia pagliata, cosa ribianti. Ma che cosa sei Rio Ferro Ferro? Di cosa ne fai tu? Non cucciucciare lì a Rio Ferro Ferro. No, quello liquido! No, lo che vede liquido lui lo vuole, capito hai? Sì, quello che vende nei tubetti, l'acciaio liquido. No, dice, Ferro Ferro liquido vuole, e quell'acciaio lo vendono ai supermercati, quello è liquido. No, di chi tu vuole un vasto in casa, Buzzi? Di chi tu, divino proprio mi, chi se buona vita? Per la Gian Maria, vista per la Gian Maria da chi la giovi lì oggi, per la Gian Maria un buccione in una travanca. Ehi, ehi alla stagione mi saluti, a Puglia, e ciao ti sigli, certo. Beh, grazie, no, no a pelle a Gian Maria, non le fai la corte. Tu dici così da poi quando andi in bocca al buccione di Lavruvero, vino, fermentino, tu dici così, però non è così, ti la verità. Infatti, io credo che sono credo, ma quella verità è credi, Fabri. E la scena, ragazzi, che ci ho fatto come c'è qualcuno che ti mandava la fotografia, però non ti mandava un contenuto. E tu si crea che noi mandiamo le fotografie, non lo so che io. Ah, te ne mantirei, Fabri. Altre fotografie non le mandiamo noi, mandiamo il contenuto vero, cazzo. Beh, ce l'ho, ti manda le fotografie. E il contenuto se lo mandi a lui. No, devi leccare il telefonino per assaggiarle. Ma fa vedi, bello bene. E pari infatti, non te la mai da vicino. Io sono molto sentito come intagliata. Oggi riso la pescatora, polpo a aglio presemole, peperoncino e polpo con la salsetta. Oggi ha mangiato tutto mare. A me per fare c'è tutto bla bla bla e per fare come te lo cane che ha paiene, ma non mi si chiede, bla bla. E dillo a tutti, la notte li do con un secondo rando, polpa insalata, polpa con la salsina, e la notte primo niente, di no è troppo e troppo male. Polpo di scoglio, buonanotte Fabri, un burro ma ti ho fatto pure un mese a boccaccia, me la ti cagliù da un forno, oh yeah! E sicuro si mangiano a te, chissi, pizza al bocco si mangiano, dicono che non li mangiano, adesso se lo mangiano. E aspetta quando entra Berlusconi, se ne cuori pure a 6 miglia. E Salvini non ribonfide. Adesso si entra poco a poco in fare a Berlusconi. Gli vedi niente. Si ribonano in nata la nave e li mandano al largo. Da voi la fonda, Salvini. Graziano, ah Graziano mi ha dato Berlusconi. Ah ma gli sai non da culastro. Tutto bla bla bla solo bacchi. E tutto qui. Hai visto cosa sta facendo Berlusconi? Ti senti utilizzato. E c'è una bella voce. Bisogna vedere poi se tutto quello che dice è verità. Oppure sono fantomatiche. No, questa è la pensione, non ci credo affatto io, manco Bassogno, che lui la minima la porta a 1000 e gli altri poi hanno un 80. Non saranno, quello che fanno così, tutto a bagliare, nulla. Io quando lo vedo che assegnano la pensione quella lì, allora ci credo, ma va, non mi credo proprio. È tutto un po' e poi basta. Adesso dice così perché vuole procurare i clienti, vuole dare il voto, Ma no, allora io gli ho fatto 45 anni di cosa, dei contributi, tu non hai fatto nulla e più gli canti a me, non saranno. Ma il pezzo, se abbiamo fatto la legge, abbiamo già mandato la legge, invece, a chi piglia 70-80 mila euro e più all'anno, non abbiamo capato la manco 5 mila euro, 5 mila euro la manco, ognuno ad aumentare pensione, sarebbe stata una cosa da fatta. Ah, giusto, pedemonia, l'ho abbassata la buonanima. Ah, bici, se la diamo a cattacciare il biglietto anche che se la che pigliano i cazzo. È gente morire di fame, che non riesce a tirare davanti, davvero. E gli altri sani fa già, i leggi li fanno in paesi, ma te se no per noi, paesi. Tutti sono bla bla bla e da voi e chi dà ragione, importante fate la poltrona tranquilla, Eddi. A chi? Ma tutti li immaginate, cazzo, eh? E cosa soffrire niente? La pensione buona toccava a chi li travaglia nel cuore, in mezzo alle temperie, in mezzo alle malasciughe, in mezzo ai pericoli. E invece non fate niente, pesate di tutto e pigliano un saccaccio alla faccia nostra. E non li basta ancora. Ehi, ma già c'è coso. Se c'è Salvini che aveva caricato tutto in un'altra vacca e si portava tutti gli immigrati. Se li porta a casa sua, e così abbiamo più spazio. Oia! Oia, grazie! Non mi vuoi i carri, vuoi il pesce, vuoi la parabola Sky! Sabini ha detto che aveva bloccato tutto, fate un casino, non ne fate sbarcare in mancuno, a che si vuole tutta la giustizia! E chi si rimanda a tutti qua, tutti a tavolini soggiunti. Pacchi, ripeto un attimino al telefono. Dici Graziano, non ve la fate mai a portarsi, ci sono milioni e milioni. Ogni anno gli amici quanto non arrivini, invece di fare l'arrivino, non dobbiamo fare l'arrivino, bloccarli in cammino, vai, torna da lì, gira le palle, avviati. Invece no, apri l'Italia, apri i bracci, io arreghiti, carreghiti, vedi. E la sua linea prende la qualsiasi cosa. E non c'è stata invasione, invece no, visto, arrivini e subito. I vestiari perché sono bagnati, le scarpe perché sono scalzi, il telefonino perché devo comunicare con la famiglia e soldi per mangiare. Vito d'alloggio e anche la donna. A chi già rientro subito a fare in ufficio? Se vai in ufficio, grazie a vai, invece lo fai tu pure però dall'ufficio. Sì, ma tu devi pensare, vengono e le alloggiano, Vito alloggia tutte quante le belle cose, li vestono, li calzano, li lavano, cosa fate? Ci sono italiani che dormono sotto il porticato, all'aria bilca proprio, oppure sotto l'albero, perché non hanno 5 centesimi per comprarsi anche il pane. Devono andare, che se mangiano perché sono soldi. E mangiare che gli donano la gente che passa, gli fanno una piccola elemosina. Però lo Stato non vi pensa. E ce ne sono. Noi qua non abbiamo così, ne abbiamo pochi, di questi abbandonati. Ma se andiamo verso Milano, Roma, Torino, e quanta viene gente di Roma sotto il porticato. E beh, 8.000 posti sono 8.000 posti. Perché bisogna anche tenerli, bisogna pulirli, bisogna fare, e noi così spesso ce ne sono. Però l'italiano non è di razzini, perché è italiano. C'è stato giapponese, americano, tedesco, romano della bocca, li abbiamo dato tutto. Tu devi vedere questi qua, ogni spaccio di giovanotto, quello solleva una montagna. E sono a spasso, sono venuti dal paese loro, qua, perché qui pensavo che c'era l'America, invece no che l'America non tenne, no che c'era fammi. Sì, ma c'è gente che va nel cassonetto della spazzatura a recuperare qualche melanzana, qualche cipolla, qualche cosa così di ortaggio per poterselo mangiare. Ma sai quanta gente ha giubito io, che fa fende sul travaglio? Dico una cosa, io stavo lavorando in casa di una donna, capito, una signora, tanto tempo fa, e stiamo facendo i pavimenti in questo appartamento, in questi appartamenti, perché c'erano tanti appartamenti, li affittava. E lì il mezzogiorno, di fronte a lì c'era il verduraio, di signore era quell'uomo, la roba li avanzava, prendeva e la buttava nei cassonetti. Lì il cassonetto era sotto la cucina, scendeva da casa sua, vedeva cosa c'era e lo raccoglieva. E gente che ha milioni e milioni e milioni e milioni, ma proprio milioni, dirà, a chi non te lo canteranno in camera da letto. Ma quando lei usciva lasciava tutto aperto, mi lasciava, mi diceva, maestro, ma chi? Mi raccomando, faccio entrare nessuno. In altro canteranno, mazzette da 100.000 lire, e tanto veniva un sacramento. E i soldi ce li aveva, e andava con gli indi, diciamo, e cabuccalia dalle cassonetti. Il mezzogiorno scendeva al mercato pesce, prendeva il mercato di pesce, lasciava un pesce buzzinoso. E quello sì. Ma non è, poi quando chiamava l'operaio a lavorare non era vara, i soldi li dava, e prima scadiamo rognendo, poi se li dava, perché quando sono andato io ci ho lavorato nel 95, no, nel 2000, nel 2000 io ci ho lavorato con quella donna lì. Gli ho fatto l'appartamento, poi dice, maestro, ma chi, la giornata me deve fare? Ha detto, che faccio giornata? Ha detto, vabbè, lì mi dà 120.000 lire per 8 ore. Va benissimo. Quando mi ha visto lavorare, mi ha detto, maestro, ma chi, dice, da questa settimana gli do 150, dammi 150. E poi mi facevo fare le ferie, quando andavo in ferie in agosto oppure Natale, erano sempre pagate, 10 giorni, 15 giorni, me li pagava. Però andavo con gli nella modesta un cassonetto, non voglio variare chi su io. E ma certa gente non mangia la carne perché il maiale non lo mangiano loro, perché il maiale per loro è sacro. Mangiano l'agnello, la mucca, le galline e tutta la roba, il maiale no. E poi ti dico questo, a Roma, un giorno ero a Roma con mio compare, con compare Angelo, già lo conosci, all'Imbara. E eravamo arrivati ai Castelli a mangiare un panino così con la porchetta, in una locanda. Entra questo nero, si è visto mangiare, dice, ah, mangiando state, e mio compare gli ha detto, favorisci, voi, dice, cosa c'è? Vitella, gli ha detto mio compare. Vitella, ah sì, se vitella lo mangio. Quando se l'ha mangiato, che dietro la botte si è bevuto anche un tazzone di vino, quando è passato gli ha detto, buono era, buonissimo, era maiale. Dice, il peccato l'hai fatto tu, non io, perché me l'hai fatto mangiare tu. Ehi, ehi, vediamo, Gio Maria è rientrato, sì. Gio Maria si è allontanato, Graziano. Graziano si fa di un gommolo. Ah, oh, è andato in bagno, Graziano, ma si è fatto un po' la pipì. Forse i frigiuri era, è troppo oleose. Sono qua, sono qua. No, non è vero, sono andato in ufficio, me ne ho levate due robette che erano stese e ho messo un guanto di patata a budighi, mi raggiungo un pane al polpo a insalata, lo mischio con il polpo a insalata che c'è più buono. Sono passato dalla mangiare un buco, dopo ti mangiare un buco tu. Allora, è sicuro, questo patato è buonissimo, fai una budita a terra, è saporitissimo, proprio buono buono, sardo, no, vedo che vendi, ne hai pigliato una retina da poco, tutto mangiato 30 ore a niente, si era già lampato. E lì c'è un patato che va via nei 10 anni. No, quando avevo tempo del patato e te lo do io il patato. Se ci troviamo già ti do io, ti faccio mangiare patate quest'anno. Ma volo però, volo, volo, volo. Io c'ho i clienti che mi ordineggiano i 15 di prima, se no mi lasci le patate. Ma chi dici, così volo non ho avuto mai. Allora comincia a lavarmi, ma tu mi dai e non mangi mai nulla. Tu ti mangi tu, boh, fai due cazzo e segnali, Graziano, gufo. Adesso non c'è nulla, quando vai la roba io ti arrivo, io ti posso proprio affugare la roba. Aspetta quando arrivano le favette, io ti arrivo le favette. Tu voglio vedere. Fabri, tu dici così, la poi non arriva mai nuda, non ti dici nuda, si mangia tutto tu. Cosa vuoi fare? Vuol dire mi piace tutto così. Guarda che ne sto prendendo da uno dei signori che passa qua il sabato. E sono buone, sono tutti buoni di terra. Sono buonissime. E poi mi ha detto che sono di campagna di lui. Sì, che dopo lavorare in falegnameria dietro la villa del signor Mario c'erano tutto campi di patate, le compravo lì, le compravo vicino dove c'era il coso delle anguille a Pratamoa. E andavo lì e ti dirà così, andavo la mattina prima di entrare a travagliare, gli dicevo me le prepari due cazzo di patate stasera a pasta, e me le preparava, gli tirava la terra proprio. No, quello che ho preso che era tutto macchiato dentro, tutta mancinetti l'ha detto a macchie nere pru. Poi va via un fiago, ce l'ho tutto buttato, quel sacchetto giallo che vendono all'Eurospinny, non quello di 5 kg quanti chili, quello da 3 kg mi sembra che via quelle patate di fuori che c'ha da camuntinaggio ne hanno arrigato. Sì, quelle lì le già fuori. Io ogni anno pianto così, i pomodori, le patate sono spunta, le olandesi. Ogni anno pianto quelle lì, e sono sempre buone. Quest'anno ho voluto prendere anche un po' di francesi, per provare, che dice che sono buone queste francesi. Ne ho preso 10 kg per fare un solco, a provarle. Però le altre sono favolose, quelle olandesi sono la fine del mondo. Sì, ma quelli costano di meno però, non è lo stesso prezzo della patata sarda, la patata che abbiamo noi. Quelli compri uno spina, la craia, dove tu vuoi, nei supermercati. Patate che vengono da fuori, non è roba sarda, e hanno un altro sapore. Anche quando le cucini, adesso fa le fritte e tutto, mettono i modi, tutti muccolosi. E con un poco di stracchinina. Vai, no, che non bisogna più falati dalla di chi hanno imbigliato golf e l'hanno cotto le moroto. No, manco uno se ne vede in giro in occhioso. Ma neanche arrivare all'incrocio. Se credi hanno venuti i ragazzi, bussati la gradinata della piazza, giocando a pallone, imbigliavano un pallone ai cibizzini minori e ci puniva niente a giocare. Vela che si rivede, manco uno li vede, manco l'ombra se ne vede. Ma qui non ci scendono, che c'è sempre la greppa in postazione, non hai capito? E ci sono le vedette, come se ne vede ne uno e già fatto pura. Non ci vengono a far quello. Yeah, ciao Graziano, Fabrizio, scusa. Buona serata anche per te, buon divertimento e salutami il cuore familiare, ce la sentiamo ancora. C'è tutto concilia domani. Graziano, vai. Ciao Fabrizio, buon proseguimento di serata, buon divertimento se stai uscendo. Vai da bravo. Alla prossima quando coincide. Ciao, buona domenica per domani in caso non ci sentiamo. Ciao ciao. Ehi, ciao Fabrizio, ciao Ina. Allora, Graziano, cosa mi racconti di bello? Io cosa vuoi che ti racconto? Sempre agli arresti domiciliari in casa. Agli altri gioco due chiedi che non pongo bene pura. Beh. E cosa vuoi che ti racconti? Mia adesso lunedì o martedì vado a farmi l'analisi. Perché poi devo prendere l'appuntamento per il gastroenterologo. Anche mi aveva scritto a ripetere le analisi di andare fra due mesi. Due mesi faccio un clicco, dunque faccio le analisi, il telefono, e mi dà l'appuntamento e poi andrò con le analisi. Sì, no, io sto. Devo andare a prenotare una visita per settembre. Mi bucano indi, ieri c'ero. Ma hanno detto, no, dice venga lunedì o martedì, venga una volta alla settimana fino a trovare il posto. Ma quando mai io vado giù, un mese andrò torrendo per fare per un bucciaetto. E tu scusa, perché non telefoni la mattina al ticket? Va lì, io telefono. E molti appuntamenti me li danno per telefono, me lo segno un pezzo di carta nel calendario. E così non sto cadendo i turreni. Già ti fanno aspettare, devo provare, riprovare, fino a che non ti prende la telefonata. Però di più, me li prendo così gli appuntamenti. Sì, no, sono andato sempre al cupo, vado lì, ieri mi ha detto, no, non c'è posto. Riprovi lunedì o martedì, vediamo se si è liberato qualche posto, glielo assegno. Perché io lo voglio per settembre, per novembre questa visita. L'anno scorso devo farla a marzo e mi sono buttato a novembre. Erano 7 mesi in ritardo. E anche a me così capita, cosa vuoi farci? Quando da voi ando dal medico gli dico, ascolti, io già lo sa, devo venire tale giorno, invece al cupo me l'hanno dato tale giorno. E non mi dici nulla. E cosa ti devi? E mica comandi tu, comanda niente. Tanto che non ha niente, cosa ti ne ha fatto? Io posso così. O cosa andare a pagamento per andare a Eddie, non sarai macco, no? Sì, allora a pagamento. Sono andato l'altro giorno a fare un elettrocardiogramma. Non c'era posto da nessuna parte. Il più vicino il periodo che mi hanno dato era al 31 di marzo. 29-30, alla fine marzo era, e a me mi serviva il giorno dopo. Mi ha detto, no, non ce n'è il posto. Ha detto, è a pagamento, dice domani. A pagamento con 50 euro, domani mi ha fatto la visita. E mica lo fanno anche apposta per forzare la gente a andare a farsela a pagamento. È tutto un giro di magna magna, non hai compreso. Io l'ultima visita che ho fatto, una alla pancia l'ho fatta, una, come si chiama, che mi ha passato il colmonito, guarda, adesso non mi ricordo come si chiama quella visita. Dopo un anno e mezzo me l'hanno messa, mi cacciano tutti, cazzo, ma tu cazzo, sono andato, sono entrato e decido a arrastrare in visita. Proprio la mena appunto mi l'ha fatto, so che tra 10-5 minuti mi sono bruciato, ma ha fatto un voglio apposta, arrivederci, ha detto ma com'è tutto apposta, ma con riposo, ma poi ho preso l'appuntamento al medico, sono andato e gliel'ho fatto vedere. Sì, sei così, a pagamento si ha subito tutto, invece con le cose, con la ricetta devi accettare a fare a fila e sono lunghe le cose, le file devi fare, perché tu dici che è urgente, poi ti infila, quando sei morto te la fermo. Perché non gliene frega niente, e c'è un giro lì che lo fanno apposta per incassare in anno, è compreso, ma un giro umano vemmi. Ma è tutto un giro, tutto un giro. Sì, ma io dico questo, quel dottore che la fa con la mutua, lo fa a pagamento, è sempre una stessa persona. Perché quel giorno a pagamento c'è a posto e con la mutua non ce n'era? Perché è un magna magna tra di loro, è un magna magna, è più futti. Ehi, a me mi diceva quando mi avevano provato agli occhi, no, il policlinico se ne parla fra un annetto, però questa visita io a lei gliela devo fare per forza entro 6 mesi, dunque dovrebbe venire al mio studio in Via l'Italia, al mio studio, a pagamento, ma tutti voi che andavo era 120-150 mila lire. Da me ha detto, da me mai non fanno più, a chi dice me ne mangia niente di là, boh, ma quando me ogni 6 mesi devo andare dai, e mi dice già stai andando bene, e cosa cazzo mi devo durare andare a fare? Sì, a pagamento si fa di tutto, anche i costi di prepatente, non so a pagamento, anche se si sta per la carrozza dentro, della linea, a fare la fila, si fa vedere per un anno. Invece a pagamento l'indomani vai. Vedi, se la domanda di Nora Marella dita a punisci da in culo la patente, non me la fotti venuta a diritto. Arrivi da questo livello, mi ha chiesto, a parte che ce li avevo già le visite, mi ha fogli delle visite e delle malapatologie che c'avevo, del diabetologo, del gastroenterologo e del cuore. Quello frocio mi ha detto il giorno, mi devi rifare queste visite. Gli ho detto, scusa, quelle non sono le visite che mi fa chiedere. Sì, ma queste le ha fatte l'anno scorso. Che cazzo ho fatto l'anno scorso? L'ultima è di un paio di mesi fa, cosa vuol dire? Cazzo, cosa devo andare a spendere soldi io per fare in tempo? Queste visite per portarle lì. Ma lei sta dando il numero, ascolti, faccio una cosa, escimi nella gula di... Ha giubato uno scatto dalla cadrea, ne ha pigliato una sul su, se ne è pesato dalla cadrea e si era tenuto. Sì, lo sai che sei graziale, questo bagnamagna ma sei. Fate lo conto, mi è costata la patente 300 euro. E tutti quattro parole, quattro cazzate scritte su un posto di papiro, 75 euro, 80 euro e via dicendo. Sono quattro cavolate. Che hanno le ciabucate a vestito? La Baitati dice vada ci faccio dare il foglio verde. Ehi, ma se io le facevo glielo portavo di nuovo quei fogli certificati e la arrivava la patente per due anni, ma argomento ha detto ma cosa cazzo me ne affutti, non me ne affutti niente. Tanto la macchina avrà giurumato e se ando un mi piace quando mi piace, ma compagna a me figliura cazzo in affutti, ecco. Però dice che dobbiamo dire a giurito e uno mi ha detto che lasci perdere, venga lo stesso. No, non mi interessa più niente, è inutile che mi dice a lasciare perdere a finire, non ci vengo più. Però bisogna andarlo, che volendo sono sempre in tempo, perché ce l'ho sospesa adesso, però non ci vado, non mi interessa. Un attimo, appagherò e mi, se tu paghi fai tutto, capito? Se non paghi non c'hai niente, hai fatto tutto con il corpo di denaro, perché non fanno come facevano prima, vai alla cassa mutua, ti fanno le visite e roba varia, no, a pagamento perché fai prima. A chi? Io le ho sempre fatte lì. Ah, in via Mendola, dopo le facevano prima, perché c'avevo le patenti speciali, c'avevo, io l'ho sempre fatta lì, però pagavo un tot e boh, entrava e scia, ogni 5 anni andavo in via Mendola, mi dava l'appuntamento, andavo il giorno con il versamento pagato, entravo e uscivo, boh, tutti quanti, che... Da poi che l'hanno tra i filetti sopra e gli viene il manicomio. Da chi mi ha cominciato una canzone a domandarti certificato di chi, il tuo certificato di chi, ma insomma, le riporti ti dice che sono caduti, cazzo ma più una bigliata da parugeccio. Ma chi sei entrato da Maria? E così è graziale, vuoi il certificato questo, il certificato quell'altro, io e tutto fa magna tutti, capito? Avanti signor Giomari. Se bacchi dai, c'è tutta la truppa dei miei, per cui ne approfitto, chiudo, dai, no, posso rimanere. Già, ci cerchiamo domani, buon proseguimento, saluto nei vostri QRA. A domani Bacchi, riprende e fai girare, ciao anche a Graziano. Sì, ciao Gian Maria, buona serata, saluto al Corriere e sentiamo domani se coincide. Manda bene vita, avanti Graziano. Ciao Maria, a domani, buon proseguimento e serata, ciao, vai Bacchi. Sì, è così Graziano, è così. Tore, non si è affacciato oggi, lui deve essere a fuoco della sera. Si fa di entrare un po' garedo, ci dà da appena appena di bianco. Catta, grazie, fa passaggi più corti, fa. Buonasera comunque. Buonasera signor dottore, buonasera. Io faccio ping e pong con il Graziano, va. Catta, c'è una città a mezz'ora per entrare. Scusate, dare un trenino, ma lì dice che li fai autostop. Cosa mai tu al Bortocco? Cos'è il Bortocco? vabbè, riprendi tu. Se ci fa vedere due, va, riprendi. Che è perché è una scena che ci fa chi, bubu. Oggi tu, la vecchiaia è carogna, eh. Sì, la vecchiaia è carogna, cosa vuoi fare? È così, hai capito la grazia, cosa ha detto Dore? La vecchiaia è una carogna. Ma io non l'ho sentito, è per quello che ho parlato. Oh, e cos'è? Una voce trasparente. Avanti, Dore. Devi da sé, non mi accostavi su stasera, mi. Ma l'apparato imbriaco va oggi. Sai che faccio un burro amplifo e ti intendo, vai bene, mi, me la bevi. Diglielo, Bacchi. Ehi, ehi, che grazie ha incavolato. Tomo, come stai ascoltando stasera? Più bene delle altre sere o peggio? No, ti sto ascoltando abbastanza bene. E a voglia. La radio è buona, buonissima proprio. Bisogna vedere quante stazioni riesco però. Ho costruito una mini gramplina l'altro giorno e l'ho buttata sul terrazzo. Adesso l'ho messa sul palo stasera. Ma è mini. Sì, tutto sta a vedere le stazionarie che ci sono, però sembra abbastanza bene, arrivi abbastanza bene da me. Bisogna vedere da Marino come arrivi. Marino non c'è, Marino è in ferie. Marino c'è la Drummendi, capito? Allora, Graziano ci arrivo bene perché siamo vicinissimi con Graziano. Lo so, bisogna vedere come arrivi da Marino o da qualche altro lontano. Vedere un po'. No, perché stavo toccando la radio. Budendie. Budendie? Allora ci sono stazionarie. Se Budendie ci sono stazionarie, allora. Infatti. E anche il PL. Non lo scaldava mai così tanto. Qualcosa c'ha che non va sull'antenna. C'è qualcosa che non va, perché non deve scaldare. Ma scaldava sì, ma leggermente questo qui, invece stasera è leggermente più caldo. Oh, e allora c'è qualche cosa nell'antenna che non va. Infatti. Qualche cosa di non va, c'è. E domani, non so se domani arriva mio cugino, o dopodomani, mi porta l'osmetro, e dunque so cosa è, cosa non è. Il PL dell'antenna mia qui, cioè è un po' caldo, ma perché è calda la radiolina, è scalda, se no, è freddo, è un pochettino caldo all'inizio dove avvicchi il PL, ma perché è calda la radio? Sì, è calda anche la tua radio. È calda, sì, se parli molto... scalda, aspetta a vedere, c'è la ventolina però non sta girando ancora, evidentemente non è arrivata la temperatura sua. E infatti, non è arrivata la temperatura, poi dove partire, no questa non è la ventolina, io c'è la ventolina a buffatura. Ma io mi gli giro l'alimentatore, mi gli punto la ventolina dell'alimentatore e me lo raffredda così, così non si aziona neanche quella della radio. Ha capito tu, grazie non c'è la ventolina e dunque non è partita, vale fare il biglietto e passi. Infatti, bisogna fargli un biglietto, papà sì. No, comunque, se fai passaggi corti fa, ed è meglio. Infatti, no ma poco fa eravamo ping e pong, dunque non aveva freddo. Quindi con passaggi corti non lo fai scaldare molto. Del PMR. E chi è che voleva entrare, che ha schiacciato leggermente a Tore? L'hanno parlato sopra, ma lo sacciavano. E anche tu li piatti a fruscià, boh. No, chi entra no, ah, se buona fruscia, se buoni. Anda, veda. Oh, Giulia. Ah, se buona fruscia. Fischia, grazie a io. Oh, te l'hanno messo usciti i denti. Non ci riesco a fischiare, cioè, provo, però non esce il fischio. Lo faccio così, il fischio. Vabbè, è bene. cosa stai facendo? Non volevi parlare, non volevi parlare. Ore, ma ci sei? Sì, che ci sono, e come non ci sono? Sono qua. Ti rispondi quando ti chiamo, e il cagnolino è andato, ci sei? No, non questa domenica no, all'altra vado. E se non è domenica mi vengono 20 euro ogni agghetta di gasolio, mi lascio di buoni per andare in Kiwi. Ah, va, una domenica sì, una domenica no. E già andate. Ah, che una volta al mese va bene, ma tanto gli abbrugati chi tu lo mangia. Così va anche una volta al mese va bene, vero Bacchi? E allora, se ne so fare, a spendere quattrini in zinfano, se fa ogni domenica, sono quattrini buttati, ma sono contenti quelli del fornitore che incassano un po' quelli di là. E infatti, è meglio che la prossima domenica ci vado, sì, e catta, non posso andare sempre ogni domenica, per la gita mi piglio una domenica sì e una domenica no ando. Sì, ma portali il giocattolino quando vai. Sì, Nira, so vedi che me ne brincano in Nanto, specialmente il bianco. Beh, deve fare le feste, questo è chiaro. Beh, anche lì è arrivato babbo col becchime, è già lo vedi quanti di vincitori. Sì, ma... anche che è arrivato babbo, chi mi... di vasini invece di vasini è un bel puro che te ne brincano in Nanto. È logico, si fanno le feste perché sono da un bel senza vedersi, è logico, allora te ne brincano in Nanto. A me mi ne è brincato una via un cane in piazza, l'altro giorno chiamato che mi sono imbagliato, non era nemmeno un cane di me nei buzzi. E per i sugari me ne ha brincato tutto in alto, mi ha imbruttato tutto, il giubbotto, i pantaloni, a chi l'ha infuso in terra, va via le zampe, tutti brutti di fango. E era andato in arruttore, e io lo santo Dio. E non era neanche il cane di mio nipote, era un cane di un assommo che veniva lì. Ma bisogna, Marrechi, che mi devo pigliare una tuta di chissi bianchi, ma c'è di pigliare. Mi giambo prima di arrivare a Kiwi, così a manco che non mi toccano, se voglio avere tutto di cose, giambato senza che mi imbrucchia niente. E quelle usagetta, già le vendono da Mario su, ci sono, in buste. Mi pare che ci sono due o tre, 30 anni sul rotolo. Quelle usagetta sono. Sì, di quelle tutte, non buste, tutte. Sì, tutte, quelle tutte bianche, sono di Babilius, ci sono da Marius. Sì, già ho compreso, io lo so che ci sono, infatti ci devo scendere lì e prendermele, e mi giambo prima di arrivare ai Kiwi. Buon Cristo Vali, e se qui è pronto, così a manco che non me ne brincano niente, non mi imbruttano. Non so se ce li hanno anche i cinesi, quelle tutte lì, no, non ci ho mai guardato, quelle tutte usagetta di carta, che bello, sì, e anche i cinesi ce li hanno. Ah, quello che è Porto Torre che vende ferramenta, quello lì ce li ha. Vuol dire andare in Kiwi. Allora ci abbacchi. Allora bisogna mettersi la tutta, capito? Perché così non si sporcano. Vicino a campagna, prima di arrivare alla campagna da me, c'è l'altro viottolo, no? E c'è un allevamento dei cani. Però sono cani San Bernardo, e di qui di mastino napoletano, qualcosa del genere sono, quei neri grandi, infatti è un capo enorme. E la padrona, il padrone quando scendono a metterli a mangiare, a pulire, si infilano questa tuta bianca, parli di dottore, parli. Infatti, con venavegisci tutti, con venavegisci, coincidisci direttamente, ma con te imbruttani. A me mi ha fatto a me fare il suo cucciuccio, io in piazza, lì. Tutti i pantaloni pieni di terra, ogni trecciata, lo giubbotto, tutto me l'ha pasticciato, ha detto vabbè avanti ormai stesso, non me l'ha tutti, sono andato così. No, io mi sono andato in tutta, ma ne ho fatto la tutta a coso, è tutta imbruttata. Ma ci posso vestire fare, però me l'hanno fatta a beffa, me l'hanno fatta. Sì, perché si apprendono, lo so. Tu ti pigli quella tutta lì, si da vedere a voi, non è brutta la puoi usare due o tre volte e poi ce la butti. Tanto mi sembra ce ne sono due o tre dentro il rotolino. E quelle servono tutte, servono anche le pitturare, se la mettono quando pitturano quelle tutte bianche, perché ripara la roba, non è brutta né. Quella la prendi, la fai un pacchettino e te la fai un contenitore da voi. Ma chi? Ci doveva essere qualche altro che ti stava soprammodulando. Chi è? Che vuole schiacciare il coso del piccolino? Sì, ma è passato lo stesso, ma chi io? E non che l'ha detto. E io vuol dire, vuole entrare ma non vuole entrare. Mille anni a bici ancora, se sta di poco in cura Sanremo. Certo, tutto posto mare è in coso, non si comprende nulla, ma non si capisce cosa stai dicendo. Mi passa. Un momento, no. Follo, perché non abbassa la modulazione? L'ho capito così io, un controllo. No, come faccio a dargli un controllo? Avanti per il controllo, l'amico. E vabbè, se vuoi entrare, la gianna picca. Riprendi tu. Sì, va benissimo. Hai compreso, ma chi? Se ando tutto vedo in gingri, in chivi, ne se ne do rotto piano di terra. E di fango. Il fango, oggi mi sono fango del sasso, Ce n'è fango di su. Guarda che non si capisce nulla cosa stai dicendo, Si capisce, io no, non capisci a me? A te, Bacchissi, ma chi tu che entra? Non si comprende nulla cosa dicendo. Capito, non si capisce niente di cosa dice, da voi pari, È una registrazione, ciao a tutti. Buonasera anche a lui. Tito, ha una registrazione, ma si capiva nulla, troppo volume ci aveva, tutto disturbato. L'ho capito così, che il controllo ho copiato, il resto non si sentiva niente, non si capiva. Ciao Claudio, buonasera. Ciao ragazzi, buon fine settimana a tutti, Tore, Barchisio, Graziano e compagni. No, è una registrazione dalla 27 che stanno mandando. Vabbè che è il 27, chi c'è roba di Luganale 45. Sicuramente non sa ne cosa va. E vabbè. Divertitevela che sono al PC, dai. Se coincide a dopo, riprendi to. Sì, buonasera Claudio. E ben sentito anche, sono da parecchio che non ti sentivo. To, la vita pensionato è fea, Con la moglie a casa è fea la vita pensionato, capito? Io sono 3 mesi in pensione e ti giuro avrei preferito andarmi a lavorare di nuovo. Esce Maria Gara, fai questo, fai quello, vai lì, vai là, prendi quello, prendi quell'altro. Poi c'ho che faccio di trasloco, quindi sto organizzando, facendo un casino. Ti dico, era meglio andare a travagliato. Ehi, Arusò, gioco 2 anni io, già in pensione. Penso un poco, cosa mi costa a me. Quindi figurati, mi sei passato prima, va. Vabbè. Io sono stato in pensione 3 mesi fa. Ho più di 40 anni di contributi, basta, ho già dato, però pensavo di riposarmi e invece mi pare mi gioco tutti due la giura. Vabbè, mi raggio detto me, ti do ancora qualche mese di tempo, come mi assesto bene che so veramente che sono in pensione, che ancora non mi gioco a bizzardo, è troppo come si dice, fresca la cosa. Pisaro 30 una Ian, a te a Lugano ti rappuraggiavi. Noi ui, ma come faccio io? Tira da anzi, hanno sempre. Quando mi tuffo e faccio vedere, piglio la bicicletta e mi andando a correre. Sì, to, la stessa cosa sto facendo io. Allora, vai, sì, Smith, un attimino, sto tornando subito. C'ho un impegno veloce, sto tornando. E magari tu come hai dei vecchi. Ma tornavi subito, ho trovato gente, no, non ti posso fare nulla. Se non riesci mai a fottirla, e devo buttare Ugari, e devo la mangiare Ugari, e devo fare chi, dove devo fare chi d'altro. Alla fine mi conveniva andare a lavorare. Sono sempre stanco, porca miseria. Va bene, dai, che finisco due cosette al PC, poi semmai ci sentiamo. Vai, Bacchì. Ciao, Claudio, buona serata, buon proseguimento. Ce la sentiamo. No, ce la sta bene in pensione, stai tranquillo. Tutti sono i primi mesi, poi fai il callo e stai tranquillo che sta bene. Ho vecchiato che arriva l'estivo, Bacchì, perché d'estate almeno c'è lo svago di andartene al mare, ma con queste giornate così io sono sempre a casa. No, non so guda bar, non so guda nuda, e quindi lei ne approfitta, capito? Se fosse stato uno che esce la mattina e torna la sera, come ti fai un bel niente, allora è diverso. Ma io sono sempre a casa, Bacchì, e quindi lei ne approfitta, capito? Vabbè. Comunque, meglio così, dai. L'importante è stare in salute e tira a campà. Va bene, dai, ci sentiamo dopo. Arrivate tutti splendidamente bene, eh? Avanti, grazie a... E mania poco che ti tengo, sei sempre con la fucchetta e un gutletto in mano. Oggi polpi, insalata e polpi con la salsa. E risotto alla marinara a pranzo. Saluti, niente, risotto, polpi, insalata e alla marinara. Ma è con la salsa. Salute più leggeri, là. Va bene, non fare il baglio di bunizia, puria, lucidati, allora ti bruci proprio due, Claudio, hai fatto, se fai così non ti molla più. Ehi, grazie, perché tu pensi che non fossi arrabbiati, non ha netto e non fossi. Ehi, oh iaia, ho a ciambare i denti, a nettare i vetri, quello l'ho sempre fatto anche quando lavoravo, mi aspettava quando ero a riposo, ora un sabato, ora domenica, perché io facevo un sabato sì, un sabato no, non avevi casino, ma no, quando ero a riposo, domani mattina mi esco a trovare un po' di amici, no, mi devi pulire i vetri, i ramazza che te ne vai, a mamma ci tenne a nettare i vetri, c'è su che, va bene, dai. Già ci sentiamo dopo. L'Izero, mi inteso l'hai to. Stanotte è l'Izero, Graziano, eh. Stanotte è leggero, polpi agliata. Cosa redda è? Vai a lavorare, che ti stai annoiando. Tu devi andare a lavorare ancora che devi morire, hai capito? Ti ho già dato. Fatto. Non male. Cosa, Bacchì, che avete parlato in due? Che è che ha detto andare a travagliare? Vai due a travagliare, che io giù ha dato. Non hai dato ancora. Allora, vai a lavorare ancora. Io ho già dato. Adesso dai tu. Dai, riprendi il tutore. Fai girare che io mi finisco queste due cosette. Dai, a dopo. Sì, ok, dai. Facciamo così. E allora, chi è che stava dicendo cosa? Vero, grazie. Ciao Franco, aspetta che era Franco, avanti Franco, a me senti adesso? Non lo sai, no, tutto a tratti, sì, tutto a pezzi. Vabbè, dai, sono entrato solo a fare una battuta, ciao Graziano, ciao Ottore, poi non so chi c'è altro, e ho sentito Battisio che non lo sento per niente, e a Claudio. Va bene, dai, che rimango di quel mix che sto facendo cosa. Ok, ciao, ok, vai, Bacchisio. Sì, hai saluto Franco, ma dice che non mi ascolta. Franco, mi ascolti adesso? No, Graziano, non mi ascolta. Dove si trova Franco, perché? A Sorso, sta facendo cosa? Tore già lo sente a Franco, anche Franco sente a Tore. Così è Tore. E già, ascolto bene anche a Franco. Ma chi fosse tu non lo ascolti, non so se lo ascolti. Magari lui non ascolta a te. Io a lui lo sento benissimo. Lui non ascolta a me, Tore. Sicuramente è lui che non ti ascolta a te, se no ti aveva salutato. Va benissimo, dai. Sì, vabbè. Ancora. È caldo, Bacchi? Sì. Io sempre in posizione, c'è un po'. Sì, sì. Avanti, signor Grazia, riprendi. Un altro paio di cigli e Bacchi se passa in QRT. Sì, no, il mio è freddo. Là, l'ho freddato. È normale, là. Ah, è il tuo normale, no, il mio è malato. Malato, malato. Lo sta scaldando, c'è la febbre, poverino, adesso li metto la supposta, grazie. E Luca, ce l'ha il roll metro del PMR, basta fatelo prestare, gli dà una controllata. Oppure glielo dici, se viene dietro lo controlla. Ma domani se arriva mio cugino domani, me lo porta lui, capito? Me lo doveva portare lui, doveva portare. Infatti sentiti ieri sera, se imbarcava stasera domani qua. Se no imbarca domani e dopodomani è qua, capito? Bisogna vedere il tempo com'era lì in continente. Ah, e allora se ti la riga, ma te lo sta regalando o poi se ce lo buca? No, me lo sto comprando. Me lo sto comprando, capito? E, no, rimane a me, me l'ho comprato. Detto, quando vieni ti do i soldi? Sì, no, io devo guardare. Su internet, nuovo, ma uno piccolo là, non è che mi interessa più di tanto, però già è meglio averlo, ma lo devo prendere quello, rosmetro wattmetro. Sì, già sta arrivando, rosmetro con wattmetro, capito? Sta arrivando, rosmetro wattmetro. Sì, e quanto quello lì quanto ti è venuto? Perché non ci ho guardato neanche io che prezzi c'hanno di quelli lì. Mi ha detto 60 euro, mi ha detto ieri. Dottore, così costano, tu guardato neanche. Sì, quello che ho visto io che è digitale costa sulle... una 70, un 70 euro, 70-75 euro costa. Sì, ma non ne vale la pena a comprarne un seccato. E non ce ne sono di meno. No, non ce n'è di meno. Di cosa? Ma ora non c'è più. Che ho guardato che si è preso Gio Maria costa così costa. Digitale, grazie. Digitale. E bisogna che guardo. Quando ti arriva dimmi che è il tipo di marca che guardo io. Su internet e vediamo. Perché già serve sempre i miei, no? È il tratto, già è tutto qui, no? Però può sempre servire. No, adesso mi ho ordinato una base magnetica per la 27 a vedere se funziona. È lo stile 144 di lunghezza, adesso la marca non me la ricordo, c'è scritto che c'ha un 8 ohm, mi pare, ma non me la mento, sembra buona. 40 euro. Manuale quello lì, non è digitale, manuale. Questo dice attacchi, cosa, quando accendi la radio ti dà la misurazione del ROS e più la frequenza, il wattmetro, il watt che sta uscendo. Sì, allora quello lì già me lo prenderò più in avanti, vabbè. No, vedete, mi ho preso un'antenna a base magnetica della 27. Funziona bene? C'era l'offerta e me l'ho comprata. Ma l'hai ordinata da fuori? Sì, mi te la metto fuori qua, così. Molte volte che non attacco l'antennone, ma attacco questa, ma... Sì, va bene, lo lasci stare fissa quella lì. Lo stand di biancheria la devo attaccare. Sì, gli metterò un pezzo di piastra. La bullono alla staffa dello stand di biancheria e ce la dà anche chi. Così mo non sto qua a attaccare l'antennone, ma non vedi voi. Vabbè. E poi dopo quella la posso anche spostare e già andare. Quella per attaccare anche al frigorifero, funziona anche attaccato al frigorifero. No, non lo so, ma non penso. La disturberà perché il frigorifero ogni tanto si aziona il motore da solo quando lo apre spesso per rinfrescare, non lo so, magari fa dei rumori, cioè il frigo fa rumore, fa il motore quando attacco sotto e sopra, solo, l'altro giorno ho spento io sotto il congelatore, c'è solo il frigo, non si sente. Ma ci bisogna tutti e due a sentire i carreghini. Beh, fate nel gasotto e stanno consumando anche. Capito? Dovrebbe funzionare anche lì. Se c'è buona uscita, sì. Avanti, Ciotto. Sì, no, io lo mettevo sul temo sifone e funzionava. Ascoltavo e uscivo anche. A voglia. Da 31 gas, ami. E qui c'è il termosifone. Ma poi si appoggiava pure chi mi fastidio non era, perché intanto nella fotografia che ho visto il piatto non è grande grande, la base è la base, lo stilo è 144, non mi ricordo se era dell'assidio o un'altra marca, comunque dovrebbe essere buona perché ho letto tutte le caratteristiche e pare buona. Quando arriverà questa settimana, Grazie. La provo e vediamo. Grazie, avete i sociamenti. Avanti. Grazie di veloce, Gassidi. Ho detto, vai alla GBC, il nosmetro. VEU lo trovi da GBC, che l'ho preso io l'anno scorso, nel 2017. E neanche a 50 euro arrivo. Ah, costa di meno. Oh, allora già mi avvicino a vedere. Tu chiediglielo, io ho pagato 47 euro, me l'aveva dato a me. La 27? Sta a chiedere. La 27 è quello. Come 27? Come rosmetro per il VHF, VHF non è la CBC. Ah boh, l'ho preso io, me l'ha dato a me, me l'ha dato quello lì. Sì, tu hai preso quello della 27, hai preso, non di questa frequenza qua. No, negativo, di questa frequenza qua ho preso, tranquillo. Oh, quando sono andato io non ne aveva, ha detto che non sapeva se ne arrivavano. Ah boh, io l'ho preso, ho visto che me l'ha dato, vuol dire che, anzi quello che cercavo io, il modello che cercavo io non ce l'aveva, e ne aveva un altro piccolino stesso, tipo televisioncina piccolina. Ma digitale? No, no, aghi. Io allora, non sono quelli, perché io gliel'ho chiesto e mi ha detto non sapeva neanche se ne portavano. Vuol dire che non è ordinato, se non lo ordina è ovvio che non le porta, se no già ce li hanno. Io l'ho preso io l'anno scorso, l'ho preso, e poi l'anno scorso, assai del poi, e me l'ha dato lui, proprio mi ha detto, dice, abbiamo questo modello solo e basta, ed è aghi incrociati, quelli aghi incrociati, piccolino. Boh, vabbè, vuol dire che è novazzo, allora avrò domanda per il Sennane. E prova a vedere, a me l'ha dato, poi mi ha detto che c'avevano solo quel modello lì, del resto degli altri non ne avevano, perché io sono andato a prenderne un modello preciso, no? Uno che piaceva a me, e invece non ne aveva, dice no, abbiamo questi qua solo. Boh, mi ha fatto vedere a me, sono dalla 27, non sono di questa frequenza, quelli ha fatto vedere a me, io gliel'ho chiesto, mi ha detto non sa se gliene portavano. A meno che non li ha finiti e non ne piglia più. Quello che c'è a Predaneda non è a quello dietro Cesaraccio. No, grazie, non ne ha di questi, di questa roba qua non ne ha. Ma c'è su a Serrazecca, Ghisi. Sì, la CBC, magari hanno bisogno che andare io non la via. No, magari mi la via da di tu in una via che è un casino che c'è un negozio. Vai 5-5 qua. È un casino, un montinaggio, capito? Fammi sapere se quello lì c'è un rosmetro, quelli manuali, oppure un digitale. Andiamo a vederlo, cosa l'ha dato Sole. Infatti, bisogna vedere se di dei manuali. Che un boh, non lo so. Beh, se cos'è che manuale? Digitale, manuale. Digitale manuale, boh. Quello che mi sta portando mio cugino mi ha detto, quando accendo la radio accendi anche come si chiama? Questo rosmetro. E fa tutto da solo, ti dà la cosa, il ROS e in più i watt. Però dice bisogna ogni anno, mi sembra che io, quant'è, bisogna caricare la batteria, perché c'è una batteria all'interno. C'è l'alimentatorino, c'è anche l'alimentatore per collegarlo a questo qui che carica la batteria. E allora bisogna farlo caricare, e già è così, sì. No, quello che mi aveva prestato Gio Maria, a me, a quello bisogna cambiargli la batteria, quando si caricheggia. Quello è come quello lì. Questo bisogna, c'è l'alimentatore che collegarlo alla corrente e si carica da sola. Sole, com'è? Rosmetro UEV. Ehi, l'N50 si chiama. Io ho scritto Rosmetro M50, ha scritto. Ehi. V, metti VH e UH. Allora, Rosmetro M50, metto V e H. Sì. Quanto costa, Grazia? Perché sto guardando quanto costa. Allora, V e H. Quello N50, mettimi. Rosmetro M50. V e H. N50, no M, N50. Ah, allora lo metto, aspetta. E beh, grazie. Mi sa qua, allora, Rosmetro elettronica, vari, chivi, annunci e B. Ecco, vediamo. Allora, misuratore consumo elettrico per elettrodomestici. No, non è questo. Allora, wattometro sulla madre, scoprire la sigla. Aspetta. Rosmetro elettronica varie, chivi, annunci, db. Vediamo. Qua dice ed è regalo al miglior prezzo, spedizione in tutta Italia, www.kneo, acquista in modo semplice e veloce, spedizione gratis a partire da 30 euro. E beh, ah ecco, allora, Rosmetro wattometro della ZC, 30 euro. Poi, Rosmetro wattometro Oscar 2000, wattometro Rosmetro nuovo Oscar 120 euro. Oh, guarda, ce n'è uno, c'è l'N70 e l'N50. Quello l'N50, guarda, che costa sulle 70 euro, costa 65, 70, 75, una cosa del genere. Aspetta, questi sono della CB, della 27, no, wattometro ZG, no, quello che ho io costa 45 euro, uguale al mio. Allora, Rosmetro ZG 7000 professional, vendo ZG modello 7000 professionale, Cosmo Canossa di Puglia, 110 euro, capita. Sono quelli, no, vabbè, la catturetta minorita è quadrata, sono gialli in coso. L'N50, normalmente la massa gare, però è l'N50. Avanti, Massimiliano, buonasera. A voi se stai uscendo. Va benissimo. Ho sentito, già stai arrivando bene qua. Un pochino di rumorini si sentono, ma è dal tempo. Già stai uscendo bene. Grazie. Io passo in QRT. Ce la sentiamo domani. Ciao Ottore, ciao anche agli altri amici che sono. Augurandovi buon questo ancora, e poi ci passo in QRT, ascolta fino alla linea e chiudo, vai Tore. Sì, aspetta che c'era cosa che deve essere promodulato, deve essere non lo sentivi. Va benissimo, dai, ci sentiamo Bacchi, ok. Alle prossime, a domani. Vai, grazie. Sì, ciao Bacchi, ok, a domani. Ce la risentiamo, ciao. Vabbè, domani me lo guardo al computer, perché adesso sto guardando al telefonino. Noi che non vuoi cassare, beh, comunque già ce ne sono. Ce n'è qua anche uno, Rever W570, Rosmetro, Wattmetro, SVT, UHF, 1296 MHz. Costa 90 euro e ce ne sono, domani ci guardo, 100 euro, Rosmetro Diamondo SX6600, c'è questo anche, c'è bello. Buonasera. Buonasera, signor Marie, ok, vabbè, grazie, andate così. Sì, ok, buonasera. Sarà domenica, se non ci sentiamo alla prossima quando coincide. Ciao, salutone al QRA, riprendi tu. Sì, ok, avevo già rodato da Marino. Mari. Ciao, ciao, ciao, ma sono là, alla prossima e qui arriva abbastanza bene che a Ottava. Ok. Avanti Tore, ciao Bacchisa, buon quarantino, domani, ciao. Avanti Tore. Sì, catta. Andava via, dopo di tanto che ti intendo. Insomma, ero troppo impegnato e stasera ero da, anche da un funerale, dunque sto appena ritornando, tutto qua. Oh, Massimiliano, ora stiamo durando, scusa, Massimiliano già chiuso, va bene, dai. Ok, sto, da un funerale sto appena arrivando, tutto qua. Ok, è morto mio famiglio e da una cosa all'altra ero in giro, a passeggio. Avanti, Tore, bentornato dalla gita, dalla vacanza, avanti. Sì, una vacanza, 5 di vacanza giù fatto. Ma va dove? Io, se per me sei rimasto anche un mese di là, ma te ne frega, non hai padroni da cosa, non ne hai, hai capito? Puoi fare quello che vuoi. Sì, ma non si può rimanere un mese in Chivi, catta, abbiamo i troppi di nappi puni. Specialmente a viaggiare. Lo so, tu non ci credrai, io ogni tanto vado da mia cognata a Maddalena. Sono arrivato 3 giorni, voglio tornare a casa. Casa mia, non hai capito. Avanti, grazie, buonasera. Marino, non ne ha dato, io ti intendo, meno male. E dove vedi in Africa? In Africa, amico mio, lo sai, io sto sempre lavorando, sto lavorando per voi. Sì, lo sai. A proposito, guarda qua in piazza, che c'è Mondadori, o glielo dici a fare anche qua su dove le scale, sino alla prossima recuso la fusilata con un Winchester, non vi passa mai chi subisce, uè. E poi a quello che aspira nella strada, lungo il marciapiedi, sotto ai nocchi non vi passa mai. Ora che ci ricordo una fusilata quando non vai che fusilare la cura, e c'è più che vi basta. Grazie, ma tu la data a Baghi. Vuol dire un parato a Trasamondese, se vuoi parato a Trasamondese lo faccio passare, se o no? Che qua la paghiamo, già non credo una Baghi, mi pare che ci ho pagato 320 mi sembra, una cosa del genere, non me lo ricordo. In 3 rate era. Se aggiungi altri 200 euro, domani di lunedì te lo faccio passare, va bene? Poi mi arriva anche a Tore, Tore è il boss, vero Tore? Io non credo, però sono a casa gioia, grazie, non vi basta, chi su, in origompetto entra anche vi dentro. No, io gli avrei aggiunto da un mezzo poco, è passato 3-4 volte e non si è fatto il mio video, ha le gambe autista e non ne sa chi su. Dunque provvedi tu, Tore, diglielo, se no alla prossima gli tiro una fucilata, e così non vi basta più. Rimanete con la mondetta, così è. No, oh, ci sono, come hanno portato via gli alberi, li hanno tagliati, la rimanenza delle foglie tutte attaccate ai vasconi lì, no, prima erano in mezzo alle biglie, adesso il vento è tutto, la montuna di lungo la cordonata dei vasconi, e fa schifo. Vabbè, grazie, piano piano, passa oggi, passa domani, già va via, già c'è il tempo, capito? Un po' oggi, un po' domani, già va via quella specie di foglie di alberi che ci sono. Ci vuole un po' di pazienza, grazie, non ti devi preoccupare, noi faremo tutto e stiamo lavorando solo per voi. Avanti, Tore. Ehi, Catta, grazie, per tutto l'anno ha preso ancora da Bassazzi, da lì un tempo, no? Ce la facciamo a favore, no, ce la facciamo domani, tutto quanto, e dopo lunedì la facciamo nulla, invece ne facciamo un pezzo domani, un pezzo dopo domani, insomma, c'è da lavorare, scusa, avanti, grazie. Sì, ma mi sa che io non ha proprio gara di passare i nuovi, mi si dispiace, ma è tu. Grazie, quella persona che in zona tua sta lavorando allo spazzamento, è uno conosciuto, è uno che abita in zona, non è abita in zona, la famiglia abita in zona, amico, non hai capito? La conosci bene, e non ti voglio fare nome, amico, colofolo. Grazie, devi accettare, io se vado sicuro a fine anno già trovati. È un bravo ragazzo, è un bravo ragazzo. Lo so se c'è, quando scende giù per fare il lavoro, scende la saltita, lo prende e fa fare un'altra cosa, capito? E lascia il lavoro tuo al tratto. Però deve avere un po' di pazienza, grazie. C'è tutto l'anno da fare, non si deve preoccupare. Io non so chi c'è in frequenza, io sento a te, a Graziano, vabbè, Massimiliano è andato via, Marchisio è andato via, non so se c'è qualche altra persona, avanti, Graziano mi fai girare, scusate. Ehi, chi c'è? Adesso chiudo anche io perché sono le 8:05. Va bene, mi nuovo, alte, SVR, antenna, analizzatore, meteoronde, corde, eccetera, eccetera, non mi interessa quello. E questa burma, spedizione, sostituzione, non mi interessa. Va bene, là, ce la sentiamo domani, belli bei. Ciao Marino, buona cena, buon tutto, ciao Tore. A domani se coincide. Buona domenica e salutone a chi è in ascolto. Ciao, a domani. Aspetta, noio, grazie a cos'è? Stanotte cosa abbiamo? Pizza o cameroni? Polpia e insalata con le patate, insalata aglio e prezzemolo, peperoncino, polpi così e polpi con la salsa. Con la salsa. E a mezzogiorno c'avevo l'acqua, la stessa cosa, però c'era il riso alla marinara. Stanotte niente riso, solo polpi. Non avevi riso, però la mare patate, scusa, sono buone, non ti piace, non mi piace la patata, mi dispiace. A me piace la patata, è più forte di me. Ciao malato, fai quello, dimmi, quello ti piace. È così, comunque i polpi le mangio alla marinara, la iada e al sugo, e che sia roba piccante, grazie, roba piccante. Ok, buonasera, è stata una signora e ci sentiamo domani, allora, avanti Tore. Sì, ci sentiamo domani, grazie, ok, va benissimo, anda per anda. Grazie, sì, a domani, là. Ciao belli bei, ciao ciao. Ciao, devi dormire, dunque mangia leggero e si è a posto. Avanti Tore, come mi racconti, come è stata la gita? Ho visto il tuo messaggio, le tue foto, bellissimo, avanti. Cazzo di Dio, bisogna fare chilometri e chilometri, bisogna fare per andare a Rirughi. Lo so, ma è una cosa bellissima, vabbè, non fa nulla, dai. Una settimana, la prossima volta ci rimane di più. E lo so che ci vuole portafoglio appresso, questo è, lo puoi immaginare. Tu fai conto, io ho, no, nel senso sono arrivati veloce. Tu fai conto, io ho mia sorella che è andata dal figlio e a Singapore, che ha avuto un problema, mio nipote. Il figlio di mio nipote ha avuto un problema, mio nipote lavora in un ristorante, gestisce 3 ristoranti a Singapore. E mia sorella è rimasta lì perché c'ha a fare compagnia alla nuora e così via. E io le mando i messaggi la mattina quando mi alzo, mi alzo alle 3, le mando il messaggio, il buongiorno. Manco 2 minuti mi risponde subito, figure, Singapore, avanti to. No, da lì io già c'avevo con il telefono mio, già potevo fare le chiamate che volevo con il mio. E cosa, infatti il cover le ho mandate a tutti quelli che potevo mandarle. Oh, mi vuole un montone di denaro a fare un viaggio. Pensa un po' che mi vuole quasi 28 euro per fare i biglietti ogni giorno. Ci vuole il portafoglio appresso, purtroppo. Purtroppo, vabbè, ci stai a fare visita tua figlia, dai, hai fatto il coso tuo, ora purtroppo così, dai. Ti sei riposato, sì. Chilometri a Giuvato, camminando a piedi. Ma, dammi gioco di vizio di buru. Beh, in negozi a volontà, in bediruchi ci siamo entrati, a voglia, devi dire. Certo, altro che non che i negozi, ne dà che hanno entri devi girare. Ti sei sbalassato, anche i negozi di roba elettronica, questa roba qua, ti sei entrato, sì. Oh, non la giaudo mancuno da che si batti di elettronica. Mi paro telefono e cose di chi di quelli dove vendono televisori, smartphone, stampanti e telefonini, solo quelli li ho trovato. Beh, questa roba qua che siamo noi non hai trovato nulla, magari se chiedevi magari c'avevi sotto vicino, magari non te ne sei accorto, ma so che ce ne sono parecchi anche in zona lì. Ore! Ehi, Abacchi! Capito che ho sentito Marino, voglio salutare Marino se mi ascolta. Marino, buonasera, mi ascolti? Certo, ti ascolto, un po' di problemi, comunque ti ascolto bene come emozione. C'è un po' di disturbi, comunque ti ascolto. Buonasera da Chisi, avanti. Ok, no, era per vedere quell'antenna che c'ho su e se funzionava, solo quello lì. Bene, vuol dire che mi ascolti, io vi saluto, vi auguro ancora buon questo e passo con voi in QRT perché devo prendere il merendero. Ciao a tutti e due, buona serata. Ok, ciao Bacchi, ben sentito, dai, saluto.